All'alba finestrella di paese, tra poco chiara stella t'aprirà. S'affaccerà cantando tra le rose, e il pastorello suo saluterà. Al matrimonio manca appena un mese, e un mese in pochi giorni passerà. Finestrella di paese, sorridente tra le rose, quando all'alba le finestre sono chiuse, tra le rondini festose t'apri tu. Ti saluta primavera, sorge il sole e ti rischiara, mentre un cuore innamorato sogna e spera. Finestrella, non ti chiudere mai più. Autunno è ritornato, finestrella, ed ogni rosa gialla si farà col sacco dei ricordi sulla spalla. Il pastorello ai monti tornerà, un ricco s'è sposato chiara stella e l'ha portata a vivere in città. Finestrella di paese, dove sono le tue rose? Notte e giorno con le imposte sempre chiuse. Finestrella, mai nessuno t'aprirà. Piange un cuore senza vita, senza sole la vetrata. Torna ancora qualche rondine smarrita, cerca il nido, non lo trova e se ne va. Finestrella, finestrella, mai nessuno t'ha.